mai. Il senso è tutto qui. Mi piace quest'idea di eternità, non verità. Sì, come un fiore buttato lì sul tuo cuore, io resterò con amore. Non moriremo mai, mie labbra sulle tue.